avanti, chi vuole entrare sul 21 negativo, andrà bene meno. Ma stavo facendo un passaggio sul portatile. Se vi mettono un paio di cuffie per rilevarla, in un altro apparecchio senza antenna, ti metti sullo stesso canale e senti la modulazione. Infatti, scusa un attimo che voglio vedere la differenza, eh. Un attimino, Ma non è altro che il confronto con la Latina. poi Palazzo lo fanno alle 2, il segnale è buono a 7, però la radio è pessima. Hello. che cosa si attende? Sì, ma poi già però faccio una vedere io, vai. Il Nokia, E c'è anche il Nokia, ma quello si vedono ancora meno. Ma hai guardato? Magari qualche fesseria. Infatti. Ma stasera c'è freddo, Sono uscito poco fa, infatti. Me lo posso immaginare, cazzo, sta arrivando bello forte. Sono qua al ponte. Gara gara. Quello tu non scherzi, Sì. Sono basso e basso. Sta arrivando abbastanza forte, Gara gara. Così ti faccio vedere la situazione. Vediamo un po' come è uscita questa foto. Riesci a vedere? Vediamo un po'. Perché è uscita scura, ragazzi. Se ci vuole la macchina fotografica, a me non si vedono meglio. Gara gara. Io non sto uscendo su radio. Ma anche io non sto uscendo su radio. Non sei tu Natale. E chi sei? Gara, però non ero io. Aspetta che aumentiamo a vedere. Qua. Ok, bene, va adesso. Come mi ascolti? Benissimo, Natalia. Ho notato un po' la situazione qua, nel Lincoln. Guarda. La copiata va ancora più alla grande. Già c'è qua pronto, già. Provate ad attaccarlo. No, perché è troppo vicino, devo trovare un supporto per metterlo, un po' lontano, se no innesca. Ma già mi attrezzo. Cara gara. Ma lo passo a questo, lo passo. Cimitero sarà. Se sei tu stai dicendo uno schifo. Sono riuscito a fare, Antu. Ma aspetta, Pronto? Papa Roger. Sì, ho sentito, ho sentito. Erano anni che cercavo di farlo e non ci riuscivo. Ma là, mi sono riuscito, mi sono buttato oggi e mi sono riuscito. Cosa ho fatto? Già te lo dico già. Non ci riuscivo mai a farlo, gatta. E lo schiavo, gatta, di... che dovevo spegnere un apparecchio se dovevo parlare. No, ma chi era? Poi io ci ho capito chi è. Prende il banalissimo, il problema di chi sei, però andò a margine, è troppo veloce. Segnali, giustamente. Yeah. Well, segnale ha migliorato tantissimo, eh? Mo vediamo adesso a casa sua, vediamo come esce. Vediamo di segnale la radioattiva come esce. A casa da 9, che cioè da 7 che era aumentato più di 9, da giorni è aumentato 9,20. Figurati, mo vediamo quanto va arrivando là. Fatevi vicino, perché sennò vi arriva male la saturazione. Stiamo tornando a casa noi, abbiamo freddo. Gianni, dove è? Sono negativo, è a casa arrivato. Che regalo? Cambio. Adesso è perfetto questo apparecchio qua. Visto? Certo, quel cavo lì per l'ascolta. No, non ce n'è più per l'ascolto, no. Non si sente nulla, non si sente volare una mosca. Però che escono dalla casa così, a quanto ho capito. Eia, che immaginare mi c'è per grumetto, io. C'è una rottura di scatole. Si correvano quello là, c'era per l'ascolto. Che però faceva toccare attaccare il microfono, conosciamo tutto. L'abbiamo eliminato e va la grande. Infatti quando c'è il parlascolto così è logico che va alla grande, se lo togli, perché sennò innescano, non è due il microfono. Ma e la radio mia com'è? Ha migliorato? Sì, è buonissima, va veramente bene quell'apparecchio. Tutta la sera tentando, mister. Se uno vuole fare le cose bene bisogna pentarsi. Pacchetto, sei arrivato? Dai, arrivo un po' a finire. Fra un pochino accenderà, te credo. È strano che Gianni non abbia acceso ancora. Devo fare delle cosette, devo fare. Devo buscarmi per qua uno di quegli accordatori, un HP1000, una cosa del genere, ragazzi, che mi vedo un pezzo, perché non ne ho rosmetro per qua. Problema di stazionaria. Ma è meglio che ce l'abbia l'accordatore, capito, per quando uso anelone, non si sa mai. Esatto, poi l'accordatore ci vuole sempre. Mi piacerebbe uno qua. Solo che dovrei buscare un contenitore più grande. E io ce l'ho un altro costruito qua. E lì c'è una belva. Solo che ci vuole lo strumento e non so dove mettere lo strumento perché non ci sta. Bisogna mettere qualcosa, dai. Che cosa è che non andavo? Non te il mare di Amistad di prima. No, la folla non sembra qua, mi sembra qua. Cosa vuoi che ti dica? Adesso ho abbassato il segnale. Mi arrivava più forte prima, mi ricordo, con questo. Capitano, il primo è già attaccato direttamente su lui. Ah, faccio vedere sì, dai. Che ragazzi, vediamo un po'. Se lo vendi più forse tu dalla macchina. Come vuole la macchina? Cazzo, 9.5 qua. Con questo B noi vediamo se riattacca il tubo, come si è ma non mi sbadiglio, sono venuto. L'apparato non lo sta con il mic. Cosa dire deve essere l'alimentazione? Spero... L'alimentazione deve essere. Hai capito già? E ti ha fatto tanta quando? Thank you. attacchi. La batteria della macchina. Ma la sto facendo male. Come le sto facendo? Ti lascio a perdere, se la scarichi. Carichi la batteria? Sì. Ancora non sono entrati, come si chiama? Del Paolo, ai mezz'anni, se non hanno telefono ancora. Questo rumore qua sta facendo sotto l'impianto, no? Sì, evidentemente sì. Chiamata, magari c'è gente. Prova, vai. 12. sentita se c'è un ascolto, cambio. Ehi, venga qua. Visto là che c'era gente, mi ha sentito quello là, un Alfa Tango era. Sì, ho sentito, ma lui è spostato, non ci posso fare un nulla. Senti, non c'è la banana laterale spostata, affanculo, va. Perché io lo sentivo bene a quello là, tu magari lo sentivi bene, però sei spostato in trasmissione, capito la cosa del discorso? A te non ti ascoltano per niente, sei fuori di un bere. E mi sono spostato io, Natale. Sì, perché sei spostato in trasmissione. Io adesso voglio allineare. Ti trovo a imbucare con te, c'è un vittimo, capisci? Ma già si può riallineare già, a frequenza metro buono ci vuole quelli professionali. Come schiaccio l'importante deve andare in quella frequenza lì per forza. E così è allineato. Però ci vuole un frequenza metro buono, con la sonda tutto quanto. Si conferma, vabbè. Ciao, ragazzi. Dove andiamo? Va? Che cazzo la so? Sento se quando mi rimbata non lo capisci uno. Però mi sono venuto anche io prima volta, perché non c'era un baracchino. Dico, come va via che mi hanno spostato, ma adesso vediamo forse riesco a farlo una riallineare. Un po' almeno, là. Vediamo un po'. Ah, questo è perfetto. L'ho già provato, questo qui lo sentivo bene. Solo che c'è un po' più vatto. Cioè, ci vuole a fare qua, ma cazzo, devo trovare un posto dove metterlo, ma perché è troppo vicino. Se lo attacco a casa a metà di gasotto. Siamo a che ora, lei? Cosa? A che ora? Siamo a che ora? Questo? Il presidente Lincoln è... Beh, ma allora cosa ha detto di Durdurà per farlo funzionare bene? Già in dicezione c'era la colonna e barrata e io ho dovuto cambiare quella. Dopo c'aveva un rientro e non riuscivo ad attaccare il microfono e ho dovuto togliere il rientro. Cazzo, guarda, un macello. E poi è difficile usarlo perché non è come gli altri apparecchi questo qui. È tutto un apparecchio particolare, io ho imparato a usarlo. Solo che se vado nei canali alti è un macello a metterlo in frequenza. Io già ci riesco perché lo so com'è, perché l'ho capito com'è. Però è un apparecchio un po' difficilotto da usare. Quella quante frequenze ha? Com'è? Sì, anzi. 2630 fa. Ascolta, ma l'hai comprato su eBay? Ah, no, qua l'ho comprato. Però, cazzo, ho dovuto faticare per metterlo a posto. Però adesso è un gioiello, funziona benissimo, ah, una bella. È bloccato, può dare 30 watt, è bloccato a 25, più di quello non ne dà. Poi ci può regolare la frequenza, lui. Se lo metto così, lo abbasso. Guarda, l'ho abbassato, sarà un 10 watt adesso, aspetta, lo metto ancora più basso, lui si vede? Beh, si conferma, ma stavo dicendo, molto l'hai pagato, sono indiscreto. Ho fatto uno scambio, là. Ho dato l'Alan 48 più quel presente piccolino che avevo e mi hanno dato questo. Però, cazzo, da come me l'hanno dato a come adesso c'è un abisso. Infatti, come ti intendo, il padrone uguale. Ma posso capire di chi era? E Luigi me l'ha dato. Gaffa. Va bene, già fugge. Avanti il becco. Provincia, Cappa, provincia di Bari, qua è la città di Sassari, nord della Sardegna, Non so come tu mi stia ascoltando, io ti ascolto un segnale di 5, la radio 4, là. Non so come mi stai ascoltando tu. Stazione 165, macchina Gambero Oscar, operatore Natalino, K. K, grazie. Comunque la preparazione sta per andarsene, ti sei abbassato di molto. Ti sei abbassato di molto. C'è l'amico Luca qua, non so se lo ascolti. Luca, vai per l'amico di bar, dai. Tocchi, non so se mi ascolti l'amico di bar, comunque buonasera, io ti ascolto basso basso, segnale oscillante 1-3 a radio 2, avanti a te, buonasera. Ho sentito, ho detto ti ascoltano bene, è una radio di 4, ti ascoltano bene, va, l'amico di Bari. Sì, non è basso basso qua, Natali, ma è zona tua perché sei nato, riesci a prendere in pieno, qua è basso. E poi sono riuscito a fare un'altra cosa, sono riuscito a separare le antenne, praticamente questa me la uso qua, me la posso usare nell'altro e più posso ascoltare l'altro. Ho fatto una figata stasera. Come sono qua le tette, amico di Bari, avanti. E vanno in tribunale. Guarda, mi aspetta. Sentito. Sentiva. Brava figlia. Ti devo dire che hai trovato una figata. E gli anni che mi dico che vai a Suria e non vuoi riuscire. Tanto è nato che sto usando adesso, la posso usare nell'altro, non lo dice Vittorio. E la senti la propagazione, basta una cena la sola. Ma chiamavi la Zari? Sì, ma c'è un po' più usato, cosa li chiamo? Vabbè, come si è fatto sentire, dai, comunque, Natali, intanto voi, dici qua, non ti stai usando? La manetta, insomma, adesso, ma saranno 25 watt, non di più. Più di me, Natali, già voi, E l'ho bloccato, se no me da un 30-35, così vabbè, ma può uscire anche un 100 watt questo, basta cambiare il finale. Ecco, guarda com'è il presidente Lincoln, com'è? La grandezza. La grandezza è come può essere il tuo. Ma se vedi è bellissimo. Già a lui ti scappa una fotografia e te la faccio vedere. Esatto. Non andava. Te lo ricordi che ci passato, ti ho messo male, che mi ha fatto poco. Capi al calcino, madonna. Solo che non c'ho capsula, c'è ancora il ferro, lì forse rimane un po' metallica per quello. Bottone. No, non gli ho messo niente, è rimasto normale, capito? Se mai hai modificato il microfono però. Sì, però c'ha la capsula normale, nella capsula non ho toccato nulla, c'è ancora quella rondella di ferro, sicuramente, non la giungo a capire in chi. Ma c'è il microfono è nuovo la rondella? Sì, è nuovo, se l'ho comprato nuovo. Anche un display bello, di lusso, per tutte le cose digitali. È veramente bello un affare. Adesso me ne devo buscare una per la macchina. Tanto adesso so come gestire le antenne e quindi me la porto qua con l'altro. Presidente Lincoln, ma come lo è? Grigio rimane. Guarda su internet, non ci puoi andare se su Google. Metti Presidente Lincoln e uscirà la fotografia. Thank you. Berlino. Bello. Qui tu mandi. Allora, me la già. L'ultimo tasto sulla tua sinistra, CW2CBLFM. Forse vabbè. Attacco il microfono, è a 5, c'è un po' locale centrale. Bellino, cazzo. Bello, va parecchio. Ma si torna continua, Ehi. Mi appare bello. C'ha un tasto rosso e uno giallo qui sotto. C'è un tasto giallo, un tasto rosso e altri quattro che sono grigi. E K, quello. Perciò facciamo smetti di digitare. Quanti arrivo, guarda un po'. 9-10. Vediamo la parete, dai. Ma va su giù. È giusto come smettere. Un attimo. Com'è? C'è qualcuno che sta chiamando il suo. Già lo so, mi spieghi sempre a me, capito? Certo, anche se non lo capisci è lui, Falchetto, c'ha problemi all'alimentatore. Io, quanto va da quell'apparecchio già? Anni? E già mi non risponde, un attimo, telefono. Potenza, ti ascolto, ma sei basso, ti ascolto, qua è la Sardegna che ti risponde, la città di Sassari, stazione 165 macchina verde Oscar, operatore natalino, arrivi bassino, e non è buona, siamo in inverno, non è buona la preparazione, io già lo sento, ma tu ci sei, ma tutti scappati, Gianni. Mi sto svegliando a sbrogliare le cuffie che ogni giorno mi si imbrogliano questo cacchino. Aspetta. Via. Ecco, se il telefono è per Paolo lo do a lui l'alimentatore così te lo porto. Come collegarlo e tutto. Quelli che non erano modulare così che rovina tutto che è stato alimentato. Spegni perché lo critico. Metti la batteria della macchina che va bene. Va bene, se dicevo va bene. Non va bene manco la batteria. Che sarà carica sarà? Va. Basta, io ho quell'alimentatore di computer. È da 8 ampere. 12 volte 8 ampere. Penso a quell'apparecchio lo tiri. Non penso che sia 8 ampere. Non penso proprio, perché il mio, guarda. 5, 6, 7, 8 sta assorbendo il mio ne assorbe 8. E questo è uno switching di computer e dovrebbe funzionare, se vuole glielo do e se lo uso, non me ne sbatto un cazzo, c'ha 8 ampere, c'è l'uscita da 8 ampere. Allora, 12 volte 8 ampere, il giallo e il nero devo mettere, e sono 8 ampere. No, non stai uscendo, no, stai uscendo tutta la carica, spegni perché? O stai all'ascolto? Attenzione, canale 21, grazie. Yeah, avanti. male, Buruego. E oggi la Dina. Sento qui di Santiago 1 addirittura, Santiago 1, gli sento lo stesso. Cazzo, non bene fare il papparito. Io sto posolando, Non mangiare! Ma c'è uno sotto che magari vuole entrare, però non esce la radio. Avevi la portante già? Sì, la portante sì. Che vuoi che dica? Adesso c'è quel carro di alimentazione per questo alimentatore. E lo do a far che? Tanto, io non me ne faccio nulla. E non si uccide nella coppia di quelli di alimentatore. E lo vedo anche la 50 adesso, non costa nemmeno uno. E mi basta la 3. Beh, se mi la dà 50 non è meglio, si deve attaccare qualche cosa in più, virai. Ah, ma ne ho uno da 10-14 ampere e l'altro da 40. Ma che c'è, sono 30 e tu, e sono a posto. Vagava. Dai. Se me lo devo tagliare le mani, me lo devo tagliare. Perché non attaccare? Perché ce l'avevo e me lo venduto. Quali che si fa? Sali, non tagliate le manine. Invece tu non hai l'alimentatore della falchetta. Che cosa? Un alimentatore da prestare a falchetto ce l'ha. Un alimentatore da prestare a falchetto? Ma come te lo ne ho? Ci vuoi giù l'alimentatore io. Io nell'altra casa. Magà. Non ci ho perché quello che c'ha non va bene per quell'apparato. Oh. Ah, troppo assorbimento con l'apparecchio lì. Che apparecchio sta usando? Grosso. No, non è grosso, ma diciamo che c'è bello. Sì, gli piace a lui. Cosa vuol dire? Io adesso non ho l'alimentatore. Questo monumento non ne ho. Ho trovato anche il capo di alimentazione, ma già va bene questo tamper, da uno switching di computer, è già predisposto, lo attacca solo i due cavi che gli dico io e funziona benissimo. Ma non bisogna avere salvato solo il telefono, c'è. Magari Natale se ti fai trovare per andare sempre, te lo diciamo a Falchetto e... E ve le riappigliate. Non c'è problema. Cazzo, solo che è uscito adesso lo prendi freddo. E noi già usciamo, noi già saliamo. Perché sta facendo un po' di freschetta. Eccolo già lo so, c'è freddo di neve, no freschetta, lo freddo è fuori. Allora no, tu me la mangiamo, al limite si guarda cercare. Io il numero di telefono non ne ho, se no l'avrei telefonato e neanche lui c'è il mio, se non è che se lo fa dare da qualcosa, da Pierpaolo. Comunque l'alimentatore è pronto, non è problema, ho trovato anche la coach, c'è una presa tedesca però, bisogna avvertirlo, c'è una presa tedesca e ci vuole un riduttore, o gli cambia la presa all'alimentatore. La spina, dai. Qual è quella tre così piatta? C'è la tedesca, capito? Che ci vuole il riduttore per entrare nella V20 normale. Ma basta tagliare al limite, gli mette una spina normale, dell'altra alimenta il toro, come vuole lui. Capito? E funziona, che è una bomba. L'ho provato io. Qua accende tutto, c'è anche l'interruttore, solo che c'ha tutti i fili volanti, però per il momento va bene questo qui, capito? Se no i fili ce ne li tuli e lo apre, no, e li risalda quelli che non risolva, e lascia solo i due fili che escono fuori per alimentare la farina. Sono 8 ampere questo, non penso che abbia fatto per tirare più di 8 ampere quell'apparato. Infatti volevo sentire a Pierpaolo per vedere quanti va abbia i watt normali, 5 watt massimo. No, forse ne ha 10, perché anche la banda laterale. Ma anche se ne ha 10, va lo stesso, perché allora, 5 watt, 2 ampere e mezzo, 10 watt, 5 ampere, ma 30, anche se c'è 15 watt lo tira lo stesso. Cos'era un alimentatore esterno o interno? È un alimentatore interno di computer, questo qui. C'è anche la vento elettrico. Eia. Buonasera anche a lei. Uscita? Sì. Ma per poco stavo aspettando che portassero le pizze a casa. Dice che stavo tardando. Dove sei? Su Alquadra? Su Parroggio. C'è le freddo? Infatti sono la macchina accesa, ma non è Parroggio. Non lo so, Massimiliano, noi già saliamo, però non so, metto che mi chiama Valuta. E cosa c'ha poi dietro? Che apparato ci ha preso, già? Come quello di Pierpaolo. Allora, l'apparecchio c'ha 25 watt. Ah, lo sì, dalla casa. Ecco perché non ce la fa. Fa passare il vostro. Se ne faccio il dato è troppo piccolo, la mia fatta di coso. Comunque questo 80 dovrebbe farlo andare. 80 è peso che batti, no? Per 25 volt forse riesce a farlo andare, ma proprio tirando dal collo. Non ce li ha, l'ora però non ha passato sicuramente, infatti me lo devo sentire a Pierpaolo. Al limite salite qua, già, io vi davo l'alimentatore e gliel'ho portato, non lo so, perché io ai cibi non dico prego, non vedi. Se no, se dovevo mangiare, mi dovevo. Vediamo, non lo so cosa decide l'autista. Fatemi sapere, già sono qui, non so, diciamo così, non scappo. Al limite vado a mangiare, però già è acceso l'apparecchio, quindi di solito. Perché ancora no, neanche c'è una. Avanti! Ma deve sto prego. Certo, Napoli, ti ascoltiamo. Qua il nodo della Sardegna, va. Noi. E tu sei di Sassa, sei di Napoli. Prova a vedere il segnale. Si muove appena, arrivi San Santiago di uno, vai. È la radio di uno, ti ascolto perché sono in cuffia, se non ti avrei sentito, vai. Comunque, al nord della Sardegna, la città è Sassari, e ti sono per Corvialina. Non so da dove tu sia veramente, se sei davvero da Napoli, ma arrivi molto basso, vai. No, ciao, grazie, altrettanto, vai. Comunque, che sei da Napoli non ci credo. Ciao, avanti Massimiliano. Io da Napoli, ho sentito Bari, ho sentito Potenza, c'è la propagazione ma è bassi, arrivano bassi. Arrivano a Santiago 1 questo qui, già da Napoli, non ti preoccupare. A me non mi sembra bassi da Napoletano. Già è da Napoli, ti sto dicendo. Ho sentito anche il Portogallo stasera, ne è. Oggi a me, infatti se avessi saputo me l'avrei preso io in giro e me l'avrei mangiato lì. Come adesso c'è un abisso, questo Lincoln. Ma come va? Ehi, ma ti sono due anni che non gioiello va. Ma io si sente, si è un bel forte, si. Sì, ha detto. Sono buoni, po. Io sono poco fa. Oh, ti ho visto che parla, mamma, ma non è che sono toccato io. Ma cos'è? Ciao Massimiliano. Ciao Pompuglio. Ma cos'è Natali? Mele gatto o buono gatto? Mele gatto, panettone mele gatto. No, è uomo dei gatti. Ma ciao Luca, no è morta, no vivo. Se la vive. Entra come domani che si è in colomba, no? Sento, vedo una colomba, e io ho detto morta, e allora viva. Sento, abbassa, metti a tre fatte, che c'è quel modulare, che c'è un file con 5 ampere, metti a tre fatte quel paracchino. Quello del Barbaro, un amaro, il capello, 18, no, non lo so. Barbaro 18, già, va bene, allora. Ma si può regolare quello lì, la potenza da fuori, Massimiliano. E quando siamo a Fotonici, dalla casa madre usciva con le fatte regolabili. Questo qua non lo so se ce le ha regolabili da fuori. E se dalla casa regolabili, cioè sarà anche quello regolabile. Infatti io ho pensato che a manetta e le palici le prende di fitto. Se lui si vede lo sa, la manotte la mia fa baciarli. Quella ce l'ha doppiata, capito? Capito, uno sopra l'altro. E dovrebbe essere quella terza. La terza dovrebbe essere. Ma bisogna sapere, sono iscritto, a per Paolo bisogna finire a sapere. Gli ho detto anch'io che a manetta quella cosa non riesce a pilotarlo. Comunque, se ne vedo io uno da 80 switching di computer. Ciao Tomper, questo qui dovrebbe tirarlo quell'apparecchio. Io penso di sì, ma al limite se non ce la fai con 25 watt lo porta a 10, a 15, se ce la regolabili finché ce la fa l'alimentatore. Sì, ma 15 ce la fa a tirarlo con la Tomper. Ma va bene, buona per X, alle prossime, Massimiliano. Avanti già. Ehi, ehi, vai. Ciao Massimiliano, di nuovo. Buon carica quando lo fai. Non c'è problema. Domani ci andiamo con la neve. E chi se ne sbatte, tanto non devo andare a lavorare. Chi è? La notte. Mi sono l'ultimo liquido. Ah, c'è il calore di ferro acceso, qua c'è un bel mercato. Ah, tu ma cosa non andiamo a mangiare, Vinè? Sì, è una fischia, no, infatti. Avanti, fischio passo passo, sì. Ma che è dove tu scendi? Non modulare, guarda che lo grippi quell'apparecchio. Sì, e se fai non ti sembra l'apparecchio, no? Se fai l'alimentatore, senti che vuol dire? Ma se gli ho detto, ma non modulare, cosa fa a modulare lì se non sai. Tu lo sai come si regola il 1987, se c'è la potenza regolabile, Antonio. Se tu, non lo so, deve regolare dove c'è il contadino, c'è scritto power, una cosa del genere. Oppure quello tipo posso dire, è per power dovrebbe essere scritto. Nella manopola dovrebbe essere la manopola larga, quella larga, quella piccolina non c'è niente, quella larga dovrebbe essere. Perché se riesce a abbassarlo lui ce l'è regolabile, ce l'ha fatta a farlo, ma secondo quanti watt c'ha un alimentatore a 3 ampere o il cacchio lo pilota, più di 5 watt non pilota. Ah, ma però dovrebbe essere cambiato il microfono, perché non è la modulazione che è molto alta, non è già sì. Ma che vuoi che ti dica io? Io non me lo ricordo se era regolabile quello lì. Io Paolo lo sa perché ce l'ha, lui ha un apparecchio lì. facciamo così, se si può regolare iniziamo a avanzare e lo portarci in volta. E basta anche un watt per modulare qua c'è qua, non c'è problema. Sì, non è stato vedere che voglio fare pancone a trovare in mezzo, perché quando si incide l'apparecchio non ce la fa. Quello che c'è giù nella c'è tutto con 5 ampere, quindi non lo so. E poi ce n'è uno switch di quelli grandi grandi che fa un sacco di tensione. Dovrebbe esserci un ampere, 20 ampere, ma cosa del genere. E a quelli di tensione 12, 24, e due ci ha tagliato 86 poi, dove di più. Te l'ho anche io switch di 8 ampere, 12 volt, se glielo regalo non è smatto niente, ce l'ho qua pronto. Se vengono a prendere se lo glielo anche io, ai cibi non vince. Di contro come la cotena qui sicuro. Magari mi sta viaggiando a te, se ne abbia il Paolo dopo e se lo porterà, tanto non ci vuole una lì, ci voglia molto, non mi pare che non so. Tanto dovevo salire al fagazzo, quindi. Ah, si fa bene così, sì. E se no, domani mangiamo, sempre che no, non è vara l'aria. Sì, non credo che scenda l'aria, va. Che vedo ci sono della neve che ci lo possono pure fare a culo. Sì, 4 gradi andiamo a stanza di stare, domani, quindi prima di stanotte. Sì, adesso siamo già freddi, non si sono giù, ha caldato bene verso gli 11, mezzo giorno la 1, si capo di 10. Poi incominciano le 2, a sentire che comunque è strano e l'erba ha cominciato ad essere umida. Figura di tutto. Guarda che ieri, avanti ieri, qua, c'era il ghiaccio, c'era con la macchina, ero mezz'ora io, con la pompa dell'acqua per togliere il ghiaccio dal vetro, che non ci staccava, pure in disfatto li erano andati a più. Sì, figurati, qui, per appena, vedo un po' ca, ma se per uscire in moto stanotte lì. Mi va che bevi un bel po' di ramo, una bottiglia di terra di ramazzotti, poi esci fuori. Oh sì, ma cosa vuoi che dico? Non so, sto cercando di stare in conto, sta aggiornandosi, a sangue alla fila lì. Sì, già mi ha fatto gialli. Eia! Ammazza! Che mi ha fatto brincare anche il perizoma. Ma fa del tempo, ma si è 14 gradi, quindi è tempo bello. E specialmente tu mi sei vicino a Usico, lo prendi bene. Ma non so se non viene qua, non si può andare. E si mi fa la neve, tanto sono contento, mi ha chiuso per camminare mezzo alla neve, l'altro non lo so, io vado con la testa a travagliare. Però bisogna tutta la vita e non lavoro un cavolo. E se un momento andiamo in andò giù, a chi si muove a fare niente, mi tocca rimanere fisso, chiuso, entrare nel mezzo, ma me la pizzinta, tanto non esco. Non c'è la cappella, come? Se non hai le cappelle. Se cammino la tesi senza il gabbene, tranquillo che io vado lo stesso a lavorare. Ti sono quelle gente che mi tirano la rivincita, lo faccio nero. Una cosa bisogna vedere che la vai a da chi saltata di casa tua. Lui non si preoccupi. Ti mani intrappolato là. Ah no, io già salvo lo stesso. Pure ti voglio vedere. Se vanno di montagna, cazzo, quella neve è stata a gabbene. Non ti preoccupate, io sulla neve già so camminare. Gli altri non sono buoni a camminarci, ma io la cammino a te, se non ti preoccupate. E anche di lui ha travagliato i soldi. E se ne sente la neve, a uscire non possiamo uscire. Qua, mi piglio una rivincita con una detta passona. Guarda che secondo campo sta nel vecchietto non ci cammina, ti dico io. Ma se scendi nella discesa di via Bonolla vicino a casa, se ci dritto, come hanno fatto tutti quando c'era la neve, rallentavi con le marce e la macchina se ne andava, era giù. Sta giudito che io cammino sopra la neve. Non ti preoccupare, io già so camminare con la neve. E ti gioco i denti, mica giudici macchine, io andendo e l'altro fuori tra, tornando indietro. Sì, ma ci ho camminato anche sulla neve, non è camminato solo tu, io ho camminato, sono andato anche a Usico con la neve, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto che non c'è più ghiaccio di sopra. Adesso c'è più ghiaccio e l'osca la situazione. Infatti, con le onde a catascendi, con le onde a catascendi. Stiamo cadendo a catascendi, lui mi dice. Io la volta che stavo andando a lavorare, che ha nevicato quell'anno, che ha nevicato forte, c'era in macchina, sono sceso da via Bonorva, è arrivato all'incrocio, scalato, piano piano, tutto quanto, ho visto la macchina che stava arrivando e ho girato lo sterzo, ho fatto girare la macchina su se stessa, da lì ho preso, sono andato indietro e me ne sono andato a casa di nuovo. Tomaggio di fascia la macchina. Dopo 5 minuti si è girato il tram, mezzo strada. È un casino. Me lo posso immaginare. Qua io sono salito tranquillo. Ma la macchina mia, e pure il tram stava tornando anche indietro, non solo di salirci. Ma ti sarò visto. Fatto è questo, non è tante volte l'autista, perché la macchina non la controlli più, tu giri da una parte e la macchina va dritta, quindi inutile, non è questione di autista, è questione che la macchina non risponde più ai comandi, non ti deni più. Io mi ricordo che una volta sono andato in via Milano, stava nevicando, sono andato per girare in un bivio e la macchina si è andata avanti. Cioè, rallenta con le marce, così la macchina decide che cosa fare. Io so il modo come andare. La varaggia quindi un'ora, ma non me la tutti nulla. Capito? Sono avvezzo a queste cose, ma se ti dicevo una volta sono uscito con l'angelo mio fratello, oggi mi ha deciso di attaccare di Santo Giuseppe, maradini in presa, ma in presa però mi sono comunque seguito e me ne sono andato, tranquillo. Con la neve? Con la neve, allora, sono andato a buono con la neve in montagna, sono sceso dalla montagna con la neve, e quando dici tu di strada, con il 26. Sono andato a soccorrerlo. Io sono andato a Tempio, sono andato a Coso, a Osico quando ha fatto la neve. Ma grazie a Dio, andato piano piano, dove c'erano già le corsie fatte dalle altre macchine, andavo piano piano e non l'ho fatta tutta la verità. Però ti dico la verità, un po' di tensione c'era perché intanto si vedevano macchine che si giravano, questo e quell'altro, ma è gente che capisce a vedere, si muove a correre come una quadrata, una volta c'era la neve, si sono messi a fare gincane le macchine. A un certo punto lui si cude in pari e questo qua, viva l'Italia, un cacchio, un carità non mi pagava, che poi giocare uno, come tempo, e allora faccio qualche fila di conseguenza. Quelle cose lì non si devono fare, assolutamente. Ma noi non siamo buoni con la Sardegna, allora devo vedere in continente, allora io ti non andrò a travagliare. Saprei come giù, in continente non mi pare come sei nobili, no. In continente gatto non c'è più la macchina, ma c'è un bello gatto che mi ha messo, ha detto che pure mi allarma e faccio a fare la macchina, che la tappava tutta. Noi come sei nobili. Se non si mette la bimba della buccia, gatta. Ha dovuto far suonare l'allarme per provare la macchina. E c'hanno le gomme cerate, in continente sono attrezzati, non so come te noi, no. I bari si fermano, in chi la va di spesso la neve? Sanno camminare sulla neve e in più sono anche attrezzati. E c'hanno anche la neve che libera la strada, sarà questo. E noi non abbiamo attrezzatura per la neve. Noi parlo di Sassa, di zone limitrofe, perché la zona nuorese ce le hanno, dove nevica molto ce le hanno queste attrezzature spargissane, tutte queste cose qua. E io ho visto via. E ti credi ci fermano in giù. Sono andato io, guarda, Sassa di Buono, con la mezza nuova ci ho messo, con la macchina di babbo. E sono andato io, mamma mia zia. E mia zia ancora viva, ti lo puoi dirmi. Ci credo, non è che stai dicendo, che stai dicendo male, ma dico loro. Loro stanno praticamente senza ombra di dubbio, meglio di noi si nevica, perché mi sparano la neve, mi fanno la strada, capito? Sì, è un gioco, ma io sono calato, non vedo né spargimento né niente, quindi era nei picchienti una bufera di neve quando sono andato, sì, finita. E io mi sono camminato, sono andato e ne era già arrivata, ma con la Sassa lì. Perché lì c'era uscito fuori strada. Lei che andava piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano. Ehi, non scottere, qua basta che piova poco a poco, non sono buoni più a portare la macchina. Se piove, si rallenta tutto il traffico, cazzo qua, diventa un attimo. Anche se piove, è vero, si intasa tanto il traffico, perché tutti prendono la macchina, e quello è il casino. Quando vedono che piove, per andare a prendere i figli a scuola e cose, poi davanti la macchina, se no piove il traffico. E così, ma tutti vanno alla sua comodità, no, c'è poco da fare, per non far bagnare i figli vanno con la macchina, ed è giusto che sia così. Avanti, Alessio. E Alessio non fette. Se no, una volta sono andato a prendere a Paola, all'ospedale, e per me ci vedeva città, no, si è puntata a casa bufera di nevi. E ci vede, e adesso come facciamo? Come ti vado in Bosa, abbiamo una cadere su Bosa, e Bosa io. E te l'ho già accompagnata a casa sua, una bufera fatto. Poi quando nevica così, nevica un bel. Così è bello, quando nevica così io mi diverto a fare le foto. Non da qua, peccato ma me la compro la macchina fotografica. Devi ricordarmi a comprare la macchina fotografica, cioè, quando detto, se mi avanzano su di me, cazzo, me la prendo. Perché quando fa neve qua sembra di essere in Val d'Aosta. Ma attendi la. Mi sa che non c'era nulla, si può dire, poca roba. Arrivo il sole e corna, passo così di 100 metri. Tutti i brillanti qua, in Val d'Aosta sembrava di essere, ma è una cosa così bella. C'ho le foto di quell'anno che hanno nevicato, che ha fatto la neve, c'è stata un 3 cm, 4 cm aria. E ho fatto le foto, ha salto il cuore, i cani che si rincorrevano, io ho fatto una foto anticata, quasi due pastorizzi che si rincorrevano giocando. Praticamente io sono un trucco per il rullino a colori che riesco a farlo anche in bianco e nero. L'ho fatta così, in bianco e nero, anticata, e ho fatto questi due cani che si ricorrevano troppo bella. Non è già di nel sacco cuore. Un anno allora sono dovuto andare a piedi a lavorare perché non era il caso di prendere la macchina. Perché come sono uscito me ne è entrata la neve dentro il portone di Pietrovica. Ma lo sai quanto ce n'era? Al ginocchio, altri 10 cm, la mia, il suo cubito andava, si ci via, sono dovuto andare catapiedi. Sì, ma infatti nei bordi ci attaccava di più, nei bordi era più alto. Io ti parlo al centro strada, era 3-4 cm, c'erano di più puro. Ma bella è che Federico mio, Antonello già lo sa, perché con Antonello lui stava allora con una ragazza beccarina, con una passata e uscivamo insieme con Antonello, Liliana e Pozzo, uscivamo tutti insieme. Ehi, ecco, se presenti la luce si è potuta andare a piedi, perché è tenuto a prenderla, giusto, se no dove ghiaccio, arriva a quattro di manzano, lui ha detto, dici, ma è paradura. E allora andiamo a piedi, e sono andato a piedi, allora più tardi la buccia, come al solito, me l'ha dubbiata la macchina, ma sulle prime non ci potevamo andare. Cazzo, una volta qua addirittura a casa, mettendo le catene alle 3 del mattino, cazzo. A chi mi si è bloccata la macchina in Antara Bisantino, in Chivi, cazzo, non avevo stretto bene le catene, dovevo vedermi armeggiando con la macchina alle 3 del mattino qua, per poter andare a lavorare. Un casino, quando c'è la neve qua non siamo organizzati, io catene non la giuremmo anche figura di bene, anche io, perché io ce l'avevo a 13, invece ce l'avevo per la 14, la fanguale. Ma poi ti rovinano tutto le catene. No, ti rovinano tutto se la neve è bassa. Se la neve è neve da catene non ti perdi nulla. Capito? Le ruote te le rovina se tu vai cazzo, quando c'è poca neve delle catene. Capito? Ma hai detto che rovina anche i cuscinetti delle ruote. Non lo so, io non ne ho mai portato, non lo so, non la giovani manco montate, vieni. Io già le ho montate parecchie volte. Però quando c'è poca neve bisogna togliere. Perché non fa andare con la catena, che andrà a brinchi la macchina, ta, ti faccio tutti la pantrella. Ma non va meglio con i chiusi, le rotte con i chiusi, come le usano in Germania. E anche in continente le usano, è logico che ci vogliono le rotte con i chiusi. Se c'è quelli lì, le rotte chiodate per la neve, ragazza, si burro. Ma no, che non ve ne manco bisogno, perché qua ne fa poca, non ne fa molto a dover avere queste precauzioni qua. Capito? Eppure vedono queste cinghie, cata, eppure me devo riuscire a trovarle, perché me le compro quelle, in 5 minuti le monti, non sono le catene, sono di plastica, sono di lusso. L'ho visto in televisione. Sì, ma comunque, da un discorso di prima, se tu vai da Campeda in poi, la neve c'è, non è, se uno viaggia con l'articolato, cosa, la trova e come se la trova? Io con l'articolato non vedo dove andare, forse si via il rimorchio, blocca la corsa 31, mentre è successo alla fine. Un collega di Michele, per esempio, cazzo, una volta erano giorni da Brici, che non vedi neve, non proseguire perché non è il caso. L'ha detto Michele, e gli dice avviato, beh, cos'è la blocca di tutta la 231? Ci è girato il rimorchio di traverso, uglia. Manco male che la tavola non si sono fermati, no, uguale. Se ti si sbattono la macchina, casino, passa anche casino. Lo so, e infatti hanno bloccato la 131, non so per quanto, perché c'era la macchina di traverso. Poi lo stesso rimorchio che si trascina la motrice, perché come si gira, si spinge, capito? E allora, le pigne bavuglia, per esempio, di un campo a 400 quintali là, in alto, già le pigne bavuglia rimorchio. Io ho visto che si incide su internet, di quel caso, non so se l'hai visto, che c'è scritto fuori strada, appena ho lasciato il guardo da lì, c'è scritto un'altra corsia, c'è scritto di macchina, un casino a combinarmi. Credo che sia uscito da camionista qua, mi scendendo proprio dopo la cementeria. Mi ha fatto poco di danno. Ha spaccato il serbatoio dell'articolato qua. Ed era una pizza a velo, però quell'articolato è troppo pericoloso. Non era una pizza del cazzo, era una pizza con le balle. Eppure un cazzo, se tu guarderai in Chivi, cazzo, e praticamente hai fatto da soli, infatti non sappiamo cosa avviare del posto, perché stava perdendo un'affa, sta prendendo il bisogno di un'affa così. Avanti per parte. Pierino. Sto arrivando. Andiamo. Dai. Magnaccio. Massimiliano se n'è andato, ci stava aspettando e ha detto che poi si è andato a mangiare anche lui. Ha detto che è salito per trovarci, invece dice, se non venite tra salire tutto quanto, si fanno più delle 10, io devo mangiare, la sei andata. Lui perché non mi ha fatto uno squillo? L'ho detto, infatti uno squillo, e mi ha detto che erano già le 10 per un quarto, la veniva a prendere a me, salire su, ci si faceva più delle 10, io devo mangiare, là. Vabbè, io non lo sapevo l'orario che arrivava lui, se lui me l'avesse detto. Vabbè, pazienza. Vabbè, sto arrivando, vai. Ehi, cosa ci portiamo, le catene? Riccardo, la cosa. Oh, cosa ti volevo dire della situazione? Quando vieni? E tu mi fate soffrire. Io intanto vado e mi faccio un po' di cappellate, è caldo, così dopo mi posso mettere a letto. Già è acceso l'apparecchio già di sotto, se mi dico. Ehi, vabbè, adesso ci passiamo, Natale, vedi cosa... Non è così urgente, domani mi avete più d'accordo, diciamo, dai, adesso andare a disturbare anche in casa tardi e mi girare scatole. Ande bene mela. Fate groupies. Allora vado, mi faccio il cappellate e già sono acceso, là. Non c'è problema. Vai tranquillo, Natale, non c'è problema. Ehi, non ti preoccupare. Se non è stanotte, stiamo per chiudere. Sarà domani, là. Va bene mela. Vabbè, là, vado a farmi tutto. Latte, caffè. Vieni, quando sei giù avvisami che così scendi. Buonasera. Appannato, quando siete sotto, ti avvisate. A 500 metri. Allora sto scendendo. Nattalino, glielo da lui l'alimentatore a Falchetto, glielo regala lui, dai. Ciao. strutturale, ci vuole salire per parlare a voi. Cazzo, non c'è problema. Ok. Eia. Cazzo, ma aspetta che spengo tutto qua, basta. È troppa roba. Vai, qua fuomane. Quello là, la macchina sarebbe l'ideale. Ho spento il computer, se no me lo guardavo com'era. Che vai la tecnocomunicazione, ce l'avrò sicuramente. Infatti. Andan bene meno, Bimbo, compero. Tu mi sta zitto, cuocone, tu sei amico di Luca, c'è cuocone pure. Ah, sta bello. Io me lo compro di bomba. Vai, vai, un ubriacone tragico, vai, un ubriacone, un altro ubriacone, con cuore, vai. Ma io perché che si può comare, te lo dico. Vai, vai, delinquente, vai, ma ne sei un brodino di mamma. Attenzione, Antonio. Poco fa mi ha fatto saltare la martingala, cappa. Bambina bomboletta, dove sei? Bebe, bebe. Appunto un acerino che ascolti la radio Balcano, che ti fa questa trappanata, cambia. Molto chiasso qua, maracchino tutta la rovescia. Fatti a me, secco, fa a me. Sì, te faccio schiazzare, vengono portabile alla tua piscina e ti faccio schiattare. Anche a me è fatta addirittura. Dalle piscine, passa pure a me quella con la pedina di sezione. E tu metti lì la mantovana, te l'ho detto, saliamo ma per tempo la piazziamo. Perché c'è il freddo fuori, se lo permette lo stivo centrale della Gran Fria, è attaccata proprio lì con lo stivo di macchina, quindi che si stava facendo un conopo. C'ho anche gli attacchi qui per la Bulema Gran Primi e poi che si attaccano al palo qua. Ma c'è due o tre di che si attacchi a noi. C'è la Fio 5. La Fio 5, ecco, io sono la Gran Primi di Sentiera. Io ho fatto un po' di stagno, ma ci sono più di stagno in freddo, che poi da qui. Invece due blocchi e attaccata per il salone di tutto, soprattutto poi metto la gara 3, non c'è da dire che faccio così, lo faccio schiantare, quando ho così la metà e la gara 3 mi ha fatto così, allora me la fai tenere così, e poi con il mare così, e devo salire un po' di tempo, e poi c'è stato, mentre la tiro dalla piazza, a fare il twist, a me proprio non era lì, non era lì, però mi distinti, compri un figlio, e gli mettiamo la gara per nascosta e mettere la gara. Avanti prende. Buonasera, chi sei? Ha passato un turno di sentito. Ma dove sei adesso? Ho capito che sei dietro di sala, ma non ho capito di sì. Dov'è che sei dopo la cimiteria? Ti fa lì. Che hai fatto? Sei titolare? pompieri. Aspetta, adesso fa vedere lui adesso. Cazzo, la peli. Commutare tramite l'altro commutatore. ha potuto fare sia qui che là. Capito qual è il discorso? E non lo potevo fare. Cazzo, chi lo difende la maniera di farlo, invece bisogna potersi disagire. Basta un po' buttare neanche, tutto si può fare. Io c'ho un centinaio di tempo in corso, non ho capito cosa mi è successo, c'ho due attacchi da me, questo può buttare con delle due tempi, come c'è abito del tempo, passare da una all'altra. Ma sapete che ne dire, c'era già proprietà una cosa del genere. Infatti me lo devo buscare uno di qui. Ma cosa c'ha il tema mille tuo? No, non so, da quando ho usato Vittorio non riesco a la stazione di Fondoscala, anche con l'antenna o senza antenna. Vai a contare o non racconta nulla. Non riesco a capire cosa è successo, mi sono c'era una bobina che si c'è metterera, però non so se magari potrebbe essere sporca di usi, non lo so. Bisogna controllare lo diavolo se è successo. E io li rivelato di cambiati gli altri. No, ho capito di io li prendere, non li ho controllati, sempre questo. Se ci sono i dio li cambio, se non la figlia è qui. Cambia i dio lì. Se li cambio, evidentemente stava pompando il e dopo la stazione andata per fatto i dio, si è stato, sono i dio di rivelatori, quelli trasparenti. Sì, c'è il capitolo di questi giorni, ma non aiuta. E per niente, le ultime domande. Così me lo metto, se c'è l'altro morto, ecco, ce lo giungerò. Quando è commentito. E se non parlo a me che me lo aggiusto io, TM1000. Ma mi sembra per fargli bisogno di scusi, non lo posso neanche dare. Almeno si spero, perché mi serve per fare le riparazioni. Perché la gara, ma lo busco uno che mi serve qua. Per quell'altro mi serve e non ne ho. Perché non c'è una cosa da smettere, ho capito la cosa del discorso, per qua non ne ho. Poi c'è preso con i ospiti, fare il video 3, tutto si è anche venuto. Ci sono laggio, ti seguo che non laggio. No, ne ho uno, ma non è per qui. Capitola. Infatti me ne devo comprare un altro per qua, che faccia tutte le HS, capito? Per qua non ne ho. Io capito. Va bene. E facci sì. Ciao, ci sono. Ripetite. Ascolta, poco fa detto che prendevi due brasiliane per scaldarsi. Dico due brasiliane o due brasiliane come Marrazzo? No, due brasiliane col faccioccio, non senza. E parla bene, cazzo, lì, mamma mia, cazzo. Sapete che la pure io che non vi ho mai detto, no, che tagliso me. Sì, non dire parolacce, c'è gente in macchina. Sì, vabbè, non dico parolacce, come fa la Natalino, ci capiamo, no? No, non mi dite, non le dite più parolacce, se no capo non c'entro neanche io, mi volevo di certo, la gente se ne fuggita per quello. E gli accidenti, ma... Non sto scherzando, così è Antonè. Cazzo. Adesso. È inutile che abbiamo, dopo la parola a tutti qua. Scherzare, tutto quello che vuoi. Però, tutti, senza... Non fanno dei proteini perché non vanno bene. Parliamo di camorfioni. La gente si è lamentata e non si sta lamentando per quel motivo. Ah, se uno vuole entrare, conosce la persona, la fa di quel tempo già da offendere, non è questione perché sono lamentati e se senti tutto quello che dico i camionisti allora la mattina presto. Allora te lo pigli per la cena se non apri al vero. Adesso i camionisti sono i camionisti, noi siamo noi. Sì, comunque, mi fa tanto non determinare, poi presto, non conta niente. Come anche in televisione, dicevo, in televisione dicono di tutti coloro che possono affrontarli e nessuno si lamenta. Basta che loro non pensino, proprio dove ce ne stanno. Sei un attimo, che sei così. capitato poi questa cosa, ma cosa non mi dia di risa così. Avanti, che favolo. Aspetta un attimo, sono al telefono. D'accordo. Grande, ecco qua, così va meglio. Non mi toccano assolutamente. che ci ho fatto due cose io, non ho mai già funzionato quello, l'aspirazzaglio. Di seguito mi compro un po' di roba, adesso ho altre cose da fare, appena arrivano i soldini da, come si chiama, il ZAI, mi compro una bella cosa, mi faccio un bel laboratorio qua, mi compro un po' di strumentazione, e così lavoro meglio, quando c'è un po' cosa da farmi non mi devo affarrare, almeno. Mi prendo la lente, con la cosa, con la farina. Anda per cazzo, per tutto. Quando finisco di lavorare vado e faccio l'abilità per gli occhiali, perché da vicino non vedo più di tutto, con tutti gli occhiali. Io la stessa cosa. Io ci vedo già da vicino, vedo più di tutto. Io me ne sono accorto delle tendature, che non vedo più. E adesso mi faccio gli occhiali come si deve e almeno posso fare tutto ciò che voglio. Calma, calma. Prima cosa è forte chissà, mi faccio una visita e via. C'è a corso una famiglia che lavora a lei, non dico chi è. C'è gli occhiali che sembrano due lattine di Pepsi sembrano, da quanto sono grossi, e lei è fidanzato con una negra, una volta gli ha mandato la luce perché gli ha pigliato fuoco il coso, cazzo, io non so come abbia fatto a spegnere l'incendio, figurati, ha preso un secchio d'acqua, ce l'ha lampato sopra il vetro dove c'era la, come si chiama, la, ha stato la derivazione. Tutto asciutto qui. Cazzo, mi meraviglio che non appena gli avvelene e ci butta l'acqua a bruci. Perché a bruci bruci. Sì, gli ho chiesto a me come faceva di notte a vedere quell'attrezzo. Gli ho detto, ah, io non vedo niente, già vedi tu la risposta. Certo, buco, hai ragione. Senza il collega in questo momento. Esatto. Ogni sera va da uno o dall'altro. Ah, sempre il microfono se vuoi dire, ma guarda che ce l'ho due apparecchio. Perché il microfono da tavola sta usando? E anche adesso sto usando il microfono da tavola, ma schiacciavo l'altro. Quello è già di bambino. Segno brutto quello da tavola. No, è segno che mi sono avvicinato qua per spegnere i telefoni. E di ribaglioni, a chi è più a risabbattere. Oh, sono buio, ogni sabato viene poi dove sarebbe anche le 2-3 mattino. No, no, io vado a letto adesso, che la so, fammi vedere. Le 11:10. E con ciò ti saluto e ci sentiamo alle prossime trasfusioni. Questi per me, salutoni a tutti quelli che stanno ascoltando. Io me ne vado a causa 144, alle prossime, cava gara. così. Vabbè, acqua, così, ciao a tutti. Fatti confine da dormire. Lo voglio proprio bere di notte, se arriva qualche ladro che si le alza con fucile in mano. Ghiaccio la pistola, non ti preoccupare. La pistola, già, con una L sola. Ehi, con una L sola, E due caricature ho preso. Sai come ha fatto cosa? La parola di Dio. E ha sparato la dico sua, e ha pescato il collo, non mi trovo dell'albero, ma com'è? Era che ci pigliò ricordi quello che c'è qui da quel furgone che l'osso. Anche a lì? Sì. Una notte era a mezzo sotto Elio, lui mi ha detto, c'era lui quando c'era la ragazza. Sono entrati dentro la villa dei Salici, dopo una mezz'oretta che quei due si stavano truffando. La ragazza gli ha detto, Marco, e si messaggio, beh, invece ne avrete addotto. Ha preso e ha fatto, lascio la tua orecchia, perché è la parola che si è messa dentro, come si chiama, nell'albero che c'è di olive. Grazie. No, ciao, comunque, dai, se no non chiudo più qua. Ci sentiamo, ciao a tutti, K. Quello da tavolo non lo conosco. vabbè, anche l'altro, mega l'altro lì, non però se purtroppo sono fare lo stesso con la camera in coco, mi trovo la tavola, basta che io non riesco più un microfono a tavola normale, quindi vedrai che ci metto la schiena dentro, l'alimento 12 volt, lì sopra mi salvi i fili del microfono e sotto faccio uscire il tabletto questo da dire sempre ancora più. Per il farmi è la stessa cosa, non cambia niente. Pull out.